una cosa velocissima perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Chiamateci anche se avete un marito legno come me e quindi dovete restare a fare tappezzeria. No, io sono ammogliato. Lo dico con determinazione perché sapendo che magari mia moglie mi ascolta. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È l'uomo per me, fatto apposta per me. È forte con me, da uomo sa dir parole d'amore. Eh sì, il tema di oggi è l'uomo che si trova a cavallo degli anta, quello che è arrivato da poco ai 40 ma è anche già entrato nei 50. Ci occuperemo di quest'uomo nella pagina di denari che apriremo tra poco, perché sono tanti gli uomini e le donne anche over 40 che ci scrivono quotidianamente, ci telefonano nel corso delle nostre puntate dedicate al lavoro e ci mandano un vero e proprio allarme. Mi riferisco alla grande difficoltà di chi in queste fasce d'età si trova senza un lavoro e deve trovare un modo per reinventarsi e reinserirsi nel mercato del lavoro. È una vera e propria emergenza che rende necessario un approfondimento, uno spazio di riflessione. Ve lo dedichiamo oggi fino alle 12, fino alle 11.45 all'800 24 00 24. Iniziate a chiamarci per raccontarci la vostra esperienza, sia che il momento di difficoltà lo stiate attraversando proprio in questo momento, sia che vi ci siate trovati e abbiate per fortuna trovato una soluzione, un lieto fine. I nostri microfoni sono aperti per voi e siamo anche pronti a leggere i vostri messaggi su Facebook, su Twitter e al 349-238-6666. E i 40 anni sono, soprattutto per un uomo, una tappa molto importante. Il corpo e la mente si preparano ad affrontare il secondo tempo. Questa è un'opportunità che non va sprecata. La posta in gioco è alta, il benessere fisico e mentale in tutte le sue declinazioni. Salute sessuale, ossea, articolare, psichica. Allora restate con noi e chiamateci se avete superato gli anta. Diteci come li state vivendo. Oggi, lo avrete letto, parte Salute Uomo, che è uno spazio che vuole comunicare la salute dell'uomo in modo diverso. Parleremo di medicina di genere, ma questa volta declinata al maschile. Ci occuperemo di mente, corpo, anima in modo olistico, come da anni si fa con la salute femminile. Siamo un trio e infatti qua in studio, già pronto per così fare una sorta di riscaldamento, il dottor Andrea Salogna, andrologo e urologo al San Raffaele di Milano, l'uomo del trio. Benvenuto. Esatto. Grazie di questo invito. Sono molto contento, credo che sia un'occasione pressoché unica, non ricordo un altro programma dove si parli a tre con due persone esperte di grande charme come siete voi, di salute al maschile. Credo che sia un'opportunità per tutti gli uomini, per tutti i maschietti all'ascolto e per noi di impararci, a conoscerci. Quindi anta la grande svolta. Certamente. Dal punto di vista dei denari, esatto. E dal punto di vista del cuore, inteso come salute. Piacere, Luigi delle bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le questa, sere. Questa canzone di Caparezza ci introduce all'argomento di oggi, già anticipato poco fa: trovare un lavoro dopo i 40 anni, anche dopo i 50, a volte sembra un'impresa eroica. Ci capita di frequente di parlare di lavoro a cuore denari, lo abbiamo fatto da molti punti di vista, lo ricorderete, abbiamo spiegato i punti principali del Jobs Act, abbiamo parlato di ammortizzatori sociali, abbiamo parlato di curriculum, abbiamo ospitato le agenzie per il lavoro per capire dove dove sono le opportunità? Abbiamo parlato proprio pochi giorni fa di nuovo di Garanzia Giovani, rivolta ai ragazzi fra i 15 e i 24 anni non impegnati in nessun percorso di lavoro, formazione e studio. Garanzia Giovani che non sta dando i risultati sperati, e tutte le volte che abbiamo affrontato il tema lavoro abbiamo notato che c'è una categoria di lavoratori che contesta il fatto che non viene dedicata loro abbastanza attenzione, proprio gli over 40. Se si rimane fuori dal mercato del lavoro a questa età, e ancora peggio è naturalmente per gli over 50, le condizioni per rientrare sono spesso proibitive, a volte del tutto scoraggianti. Allora abbiamo raccolto l'invito di questi ascoltatori per dedicare loro una puntata, e hanno accolto invece il nostro invito due ospiti che vado a salutare. Intanto collegato telefonicamente con noi Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, una grande agenzia per il lavoro. Dottor Ceresa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E grazie. Grazie anche a un amico di Cuore Denari, Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Carlo, ben ciao, grazie. Ciao. Allora Carlo, intanto voglio ricordare subito in sintesi di che cosa si occupa Back to Work 24, non per fare un biglietto da visita per un'azienda che ha anche appunto una partecipazione del Sole 24 Ore, ma perché vi occupate anche nello specifico di questa fascia d'età? Siamo nati proprio per questa fascia d'età e per questo problema che giustamente si lamenta essere poco al centro dell'attenzione. Si parla tantissimo di disoccupazione giovanile, non si è mai parlato tanto della disoccupazione di chi è maturo, e non si capisce che questa è un'emergenza sociale perché poi coinvolge direttamente le famiglie. Certo. È un impatto economico, è un impatto psicologico dentro le famiglie. Noi siamo nati per portare questo capitale umano, perché anche di questo si parla poco, esiste il capitale umano non solo finanziario ed economico, dandogli una chance, reinventandosi da manager o da impiegato fisso a coimprenditore in piccole imprese italiane che hanno tanto bisogno di questo capitale umano. Certo, naturalmente non è facile, perché bisogna anche considerare la componente emotiva di chi si trova fuori dal mercato del lavoro magari improvvisamente, quindi come dire, avere anche la lucidità di studiare le strategie giuste per reinventarsi è tutt'altro che semplice, per cui affronteremo con grande rispetto questo argomento. Non parleremo solo di lavoro, cominceremo con il lavoro ovviamente, dove andare a cercare, come riqualificarsi, come mettere a frutto le proprie esperienze anche per candidarsi in ruoli diversi da quelli in cui magari ci si è sempre impiegati, Nicoletta, per cui invito gli ascoltatori ancora una volta a chiamarci all'800 24 00 24 per capire se è il momento questo in cui stanno proprio brancolando nel buio, o se invece sono stati capaci di reinventarsi e magari ci possono anche dare provate anche a raccontarci come vi state muovendo, perché sicuramente i nostri esperti saranno in grado di dirvi se vi state muovendo nella direzione giusta. Certo. Cerchiamo di evitare gli inciampi. Marco Ceresa conosce molto bene questo mondo, tra virgolette, e lo intervistiamo molto rapidamente perché lo abbiamo proprio tirato fuori da un impegno importante questa mattina, quindi lo ringrazio doppiamente per averci concesso qualche minuto del suo tempo. Però ci tenevamo, dottor Ceresa, affinché lei fosse con noi, perché proprio in questi giorni avete diffuso una ricerca dedicata esplicitamente agli over 50, istruzioni e strumenti per una corretta valorizzazione dei lavoratori più maturi. Ci dia subito qualche dato, che cosa avete scoperto? Beh, prima di tutto è un dovere occuparsi degli over 50, perché le aziende sono fatte di persone e la popolazione italiana sta invecchiando, per cui se vogliamo continuare a avere un prodotto interno lordo che cresce, dobbiamo mettere al lavoro le persone che hanno oggi e che avranno in futuro più di 50 anni. Pensate che nel 2013 in Italia c'erano 17 milioni di persone che avevano più di 50 anni e nel 2033 saranno 22,5 milioni, per cui c'è una crescita di questo segmento della popolazione, e è importantissimo riuscire a far sì che queste persone siano abili e abbiano le competenze per lavorare all'interno delle aziende, perché sennò le aziende vanno a scomparire. Ceresa, si lavora più a lungo, dunque avete corredato di dati scientifici naturalmente la vostra indagine, sappiamo qual è il processo demografico italiano, si va in pensione dopo, si inizia anche a lavorare sempre più tardi, e in questo contesto resta fuori dal mercato del lavoro una fetta molto importante appunto di popolazione, molto spesso negli ultimi tempi è una fetta di popolazione che fa fatica poi a rientrare. Mi chiedo anche dal punto di vista della vostra esperienza quale può essere la risposta, le aziende come dovrebbero accompagnare il lavoratore che invecchia e che rimane fuori poi dal mercato del lavoro, in modo tale che non si trovi anche del tutto impreparato emotivamente rispetto a queste circostanze? Beh, le aziende devono occuparsi, secondo me, di delle persone che hanno al loro interno e non occuparsi delle persone quando hanno più di 50 anni, ma prepararli fin da quando sono giovani. Anche perché non è solo una anche questa è una forma di prevenzione, no? Di investimento sulla salute. Assolutamente sì, è importante, anche perché adesso cambiano molto i contratti di lavoro, no? E una volta una persona era all'interno di un'azienda con un contratto, ma sempre di più vediamo che sia i contratti sono a termine oppure per un motivo o per un altro le persone escono dalle aziende. E sempre di più ci sono anche dei freelance. Allora, credo che sia importante per ogni persona riuscire a fare in modo di essere sempre appetibile sul mercato del lavoro. Per fare ciò bisogna farlo prima di tutto avendo cura del proprio fisico e poi tenendosi sempre aggiornato su tutti quelli che sono i trend che avvengono nel paese. Hai visto come il dottor Ceresa ha capito perfettamente, colto perfettamente lo spirito di Cuore Denari innanzitutto, ma anche del nostro nuovo progetto che parte oggi. Di Salute Uomo. Ci fa piacere, insomma, che vengano raccolti in maniera così perspicace questi messaggi, dottor Ceresa. Andiamo ad un ultimo messaggio, ad un'ultima raccomandazione. Ci dica un po' voi come state riorientando queste persone, questi uomini e queste donne in questa fascia d'età che si rivolgono a voi, perché in questo momento sono senza lavoro e stanno facendo fatica a ricollocarsi. Che suggerimenti date per potersi candidare adeguatamente nel mercato del lavoro? Su cosa deve puntare, dottor Ceresa, un'azienda per valorizzare un lavoratore over anta? Su cosa deve puntare il lavoratore per valorizzarsi? Allora, prima di tutto le aziende, no? Per quanto riguarda le aziende è importante che capiscano che io faccio sempre la metafora del paese di montagna, i giovani sono pochi e se ne vanno, i vecchi invecchiano e muoiono e i paesi muoiono. La stessa cosa può succedere alle aziende nel momento in cui non fanno in modo che le persone continuino a lavorare il più a lungo possibile, perciò devono curare molto le persone che hanno al loro interno. Per quanto riguarda invece le persone, è importante che ascoltino bene, soprattutto quando sono fuori dal mercato del lavoro. Non bisogna rimanere legati a tutto quello che è stato il passato, ma bisogna adattarsi a quella che è la nuova realtà e guardare con flessibilità tutto quello che riguarda il lavoro, per cui con flessibilità ai contratti, con flessibilità al lavoro che si è svolto. Spesso le persone svolgono per tanti anni dei lavori che sono stati un po' imposti a loro, no? Imposti dai genitori, imposti dalla situazione, e non fanno invece i lavori che sono più vicini a quelle che sono le loro attitudini. Per cui è molto importante entrare in contatto con degli esperti che aiutino queste persone a capire quelli che sono le loro potenzialità. Tenga presente che nel nostro studio abbiamo visto come una persona giovane ha senz'altro un valore aggiunto riguardo all'energia, riguardo magari alla conoscenza delle tecnologie e così via, ma la persona più matura ha delle altre caratteristiche interessanti, è meno nevrotico davanti ai problemi, riesce ad avere una visione di più lungo periodo e ha una maturità che spesso nelle aziende è importante per riuscire ad avere successo. Per cui ci deve essere anche un legame tra i più giovani e le persone più mature, perché entrambi possono imparare qualche cosa dagli altri, dall'altro gruppo di persone. Dottor Ceresa, prima dei saluti le sottopongo subito un caso, la metto alla prova, le faccio ascoltare le necessità che ha Vincenzo dalla provincia di Livorno, per capire anche se questi suggerimenti che abbiamo appena ascoltato dalle sue parole possono essere applicabili anche al caso di questo nostro ascoltatore. Vincenzo, benvenuto. Buongiorno a voi. Intanto complimenti per la trasmissione, mi fate tanta compagnia durante la mattina. Grazie, siamo contenti. Dunque, io ho 54 anni. dall'ottobre 2012 sono disoccupato, sono un lavoratore dell'edilizia. Quando vado a cercare lavoro, quando mi va bene si mettono a ridere, se no altrimenti anche peggio. Non so dove andare a sbattere la testa, anche perché non sono un nativo tecnologico, quindi non ho tanto dimestichezza con il nativo web. Digitale, infatti, non è detto che sia totalmente un limite. Vincenzo, avrà esperienze di un altro tipo, cerchiamo di vederla, no, come dire, in positivo, forse anche Ceresa la potrà aiutare in questo senso. Per cui lei dice, però il settore edilizio effettivamente è in ginocchio da anni, quindi Vincenzo la situazione la conosciamo bene. A chi si è rivolto sul territorio? A chi si è rivolto sul territorio? È andato per esempio in agenzie come quella di cui parliamo stamattina, Randstad, ad Ecco, Open Job? Le agenzie per il lavoro, anche se non ci sono, non servono a niente, ti chiamano una volta per un colloquio e poi ti lasciano alla disperazione totale, non esistono. Io non so cosa pensare anche per il governo. Cosa aspetta di organizzare questo problema? Perché è un grandissimo problema. Magari ci sono tante aziende che cercano e il lavoratore non sa dove rivolgersi. Però Vincenzo non ha risposto alla mia domanda. Si è rivolto a questi centri o perché è scoraggiato e ha questo pregiudizio non è andato per niente? No, mi sono rivolto. Ecco. A voglia se mi sono rivolto. Vado a cercare anche personalmente. Certo. L'edilizia, mi creda, è un settore certo. In questo momento. Allora bisognerebbe forse cambiare molto settore e capire se c'è qualche azienda che ha bisogno magari di una vivacità come la sua, una professionalità simile alla sua e che possa avvalersi lo stesso del suo impiego. Grazie Vincenzo. Dottor Ceresa, però forse il caso di Vincenzo non sarà l'unico, no? Di profondo scoramento, come mi viene, scoraggiamento rispetto anche alla vostra attività di intermediazione, che in realtà funziona molto, però chiaramente chi poi non viene raggiunto dice no, non funzionano, perché tanto è inutile che io vado, perché a malapena mi chiamano per il colloquio. Un piccolo suggerimento per il nostro ascoltatore, poi la lasciamo. Allora, prima di tutto, chiaramente noi abbiamo degli ordini che arrivano dalle aziende, per cui le aziende edilizie in questo momento non ci stanno dando degli ordini. E allora quindi lui deve proprio cambiare raggio d'azione, primo suggerimento. Allora, esatto, la cosa positiva è che in realtà c'è sempre più bisogno di persone che utilizzino la loro manualità, magari non nell'edilizia, ma ci sono degli altri lavori, tutto sommato non ci vuole tanto per impararli. Mi faccia qualche esempio. Ma i soliti, ci sono dei lavori ad esempio, poi dipende da zona a zona, ma questo è un altro argomento, ma sì. Tutto quello che riguarda ad esempio il giardinaggio, oppure tutto quello che riguarda l'utilizzo di determinati automezzi, oppure tutto quello che riguarda la cura delle persone, sono comunque sempre molto richiesti, no? Per cui bisogna andare a vedere che cosa desidera rimanere a Livorno, quali sono quelle professioni dove bisogna utilizzare soprattutto la manualità che sono richieste in quel di Livorno e poi aiutare questa persona con della formazione. L'altro tema invece importante è che sempre di più geograficamente certi lavori vanno a scomparire ed altri ne nascono. Per cui probabilmente l'edilizia in questo momento dalle parti di Livorno non sta ricercando persone, ma magari le sta ricercando in altri luoghi. Allora qui diventa poi più complesso, perché bisogna avere anche una certa mobilità. Certo. Ma questa è una cosa che... Oppure conoscere meglio le esigenze del territorio. Insomma, già la prima rosa di suggerimenti. In ogni caso il nostro ascoltatore deve candidarsi a fare altro. L'edilizia non è il momento. Quindi, come dire, con coraggio aprirsi mentalmente e cercare di valutare altre opzioni. Grazie a Marco Ceresa, la lasciamo rientrare alla sua lunga riunione, dottor Ceresa, ma l'aspettiamo qua a Cuore Denari, ci venga a trovare, perché sono temi, lei lo sa, molto importanti questi. Certo. Buon lavoro. Grazie. A presto. Il suo nome, prego? John C. Public. Public, ci deve essere una L in mezzo. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso Di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. E allora, ma quante già riflessioni ci sono saltate in testa dopo aver sentito e la testimonianza dell'ascoltatore e le risposte date dall'agenzia? Che dicono gli ascoltatori? E anche un SMS che arriva da una ragazza che ci scrive: la mia mamma ha perso il lavoro a 53 anni dopo 34 anni da impiegata, ora da 10 mesi si occupa di due nonnini malati e nelle ore libere fa le pulizie, è contenta e il mutuo non è stato neanche sospeso. Io mi rendo conto, ecco, che per qualcuno può apparire flessibilità a cui faceva riferimento il tuo ospite, il dottor Ceresa. Bisogna un po' reinventarsi. Ci sono delle professioni che in questo momento, il dottor Salogna appunto me lo segnalava, quello della cura delle persone, che diventano emergenti. Esatto, la nostra popolazione invecchia, ci sarà sempre più bisogno, ma non solo dal punto di vista del lavoratore individuale che deve andare a prestare la sua assistenza ad altre persone più anziane, anche nel settore imprenditoriale, Carlo, che nascano iniziative di impresa rivolte proprio a questa... a questa specifica missione. Sì, è l'idea del futuro. Spero. Sì, una delle tante non abbiamo la formula per tutto. Certo, quella dell'imprenditorialità, autoimprenditorialità o mettersi insieme ad altri che sono in una condizione analoga, ma magari con competenze differenziate per completare un'offerta verso il mercato del lavoro, può essere una soluzione. Che anche qui richiede un po' l'apertura mentale, della mobilità, della flessibilità, ma anche quella di uscire dalla tradizione del posto garantito e dello stipendio anche a fine mese garantito, perché queste sono tipicamente condizioni che un imprenditore non affronta mai, cioè non ha la certezza del... noi in questo senso abbiamo creato uno strumento per garantire che l'accesso si possa fare. Altro aspetto su cui volevo entrare, molto manufatturiero ha bisogno in Italia di persone. Il manufatturiero è spesso piccola impresa, tra l'artigianale e poco più. Non bisogna disdegnare le dimensioni dell'impresa dove si va a lavorare, perché queste piccole imprese hanno una grande potenzialità e hanno bisogno di funzioni per il manufatturiero. Aggiungo un'ultima cosa, poi vedo che è già ora di fare i mercati, anche magari quell'imprenditore al quale si candida una persona che non è esattamente in linea con la professionalità che cerca, anche da quel punto di vista, che ci sia un'apertura mentale, che qualcuno dia una chance all'ascoltatore di Livorno, anche se magari arriva e ti porta l'esperienza del lavoratore nell'edilizia, ma tu hai bisogno di un'altra manualità. Dedichiamogli del tempo per formarlo, perché insomma questo lavoro deve essere fatto da entrambe le parti, riteniamo. Poi è chiaro che dal microfono della radio si pontifica benissimo, i problemi sono tutt'altra cosa, però insomma noi almeno qualche considerazione la solleviamo, qualche questione, poi sta a chi deve farlo metterla in pratica. Cuore e denari. Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Quanti anni hai, quanti anni avete? Noi oggi parliamo di chi è entrato negli ANT. Rimettersi in gioco a 40 anni nel mondo del lavoro, ne stiamo parlando nella prima parte di Cuore e Denari. Sono già arrivate tantissime testimonianze, 800 24 00 24. Confrontiamoci, raccontiamoci. La perdita del lavoro è un evento molto doloroso nella vita di tutti noi. Il tema è molto delicato perché va a toccare dei nervi scoperti. Ci sono molti di voi che ci mandano messaggi, li leggeremo, che raccontano questa sofferenza ma anche questa grande frustrazione. Sapete che parte Salute Uomo, è un progetto che abbiamo pensato e studiato e realizzato con l'obiettivo di aiutare gli uomini a prendersi cura di sé. Questa prima puntata la dedicheremo alla grande svolta, alla svolta dei 40 anni. Parleremo di salute sessuale, di fertilità, di desiderio, di paternità, delle fatiche e degli inciampi che ogni uomo incontra nel corso della sua vita e che talvolta e spesso sono condizionati anche dalla sua storia di vita e quindi anche dal modo in cui si relaziona con il lavoro, se il lavoro gli dà soddisfazione o se il lavoro lo perde, come è purtroppo oggi molto frequente. Dottor Salogna, ispirandosi alle considerazioni del nostro primo ospite, il dottor Ceresa, che ha fatto un po' un parallelo tra mondo del lavoro, tra prevenzione nel mondo del lavoro e prevenzione nella salute, ha raccolto? Sì, mi sono appuntato alcune cose. Ho trovato l'intervento del dottor Ceresa estremamente, vorrei dire, in primo luogo perspicace, estremamente legato al mondo della salute. Noi ci occuperemo di salute al maschile. È vero che alcune considerazioni valgono anche per le signore, però se solo dovessimo considerare il numero di uomini che dopo i 50 anni, vogliamo dire dopo i 40 anni, perché il problema si pone allo stesso modo, perdono il lavoro, esiste una correlazione strettissima tra lo stato di salute lavorativa e lo stato di salute dell'individuo, perché è indubbio che le difficoltà che una perdita così importante come quella del saper portare a casa lo stipendio a fine mese ti pone davanti agli occhi e alla quotidianità, rende ragione del fatto che anche la salute ne venga ad essere in un modo o nell'altro impattata e talvolta addirittura compromessa. Mi viene da pensare che forse il paragone non è così calzante, ma che il prodotto interno lordo si possa tramutare in un altro acronimo, SIN, salute interna netta, che in altri termini significa andare fondamentalmente a valorizzare, ad essere così bravi, così flessibili da valorizzare quelli che sono i nostri punti di forza, prevenendo quello che purtroppo la perdita del lavoro da un lato e la perdita della gioventù dall'altro ci porta a dover vivere nella quotidianità di tutti i giorni. E questo è il primo aspetto, e la capacità di adattamento a cui faceva riferimento il dottor Ceresa trovo sia un elemento fondamentale. Spesso i pazienti arrivano a dire: perché dobbiamo pensare che un farmaco debba essere preso tutti i giorni? Bisogna essere flessibili in questo senso, esattamente come si è flessibile nel mondo del lavoro. La salute viene persa perché l'età di per sé è un fattore di rischio, purtroppo ineliminabile per tante ragioni, nell'uomo in particolare, e bisogna essere sufficientemente flessibili dal pensare che un farmaco, se serve, piuttosto che una pratica diversa, se serve, sia un'espressione di flessibilità. Un ultimo concetto, secondo me, importante. L'ascoltatore di prima ci ha detto: non ci sono vicine le agenzie di lavoro interinale piuttosto che le agenzie che si occupano di lavoro. Al di là del fatto che non mi permetto di dare un giudizio perché è molto lontano dal mio mondo, i medici e il sistema sanitario nazionale esistono e sono generalmente piuttosto bravi, mi posso permettere di dire, a tutto tondo, nello stare vicino ai loro pazienti. In questo caso i maschietti, che devono valorizzare la loro salute, fare prevenzione perché la salute non venga mai a mancare come il posto di lavoro. E anche in quei casi in cui il lavoro è venuto a mancare, sono vicini spesso e dal punto di vista psicologico e dal punto di vista biologico, cioè aiutano da vicino quello che è la figura del loro paziente. 800 24 00 24, se volete raccontarci allora in che modo la vostra situazione lavorativa ha impattato sulla vostra salute generale e anche sessuale. Aspettiamo i vostri interventi al nostro numero verde. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. E chissà se è un po' quello che hanno sentito gli ascoltatori che si stanno già candidando ad intervenire in diretta. Allora prenderei subito la testimonianza di Sergio da Roma e lo voglio mettere immediatamente a confronto con la professionalità di Carlo Bassi. Sergio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Chiamo da Roma, come avete detto, e sono un 45enne, quasi 45enne, che ha perso il lavoro nel dicembre 2012. Lavoravo per una grande multinazionale, non so se posso fare i nomi delle aziende come... Guardi, per noi non c'è nessun problema, Sergio, perché qua si può parlare di tutto, non c'è, censuriamo possibilmente solo le parolacce, ecco, le offese, per il resto. No, assolutamente non è nel mio stile. Facevo parte di un'azienda del gruppo Nokia, diciamo così. Quindi telecomunicazioni, che teoricamente... Sì, telecomunicazioni è una di quelle aziende, di quelle poche aziende che si è sempre occupata della creazione di mappe per sistemi di navigazione, insomma. Ecco. Forse una delle prime, perché poi adesso, vabbè, senza che divaghiamo un pochino con il discorso. Quindi ha perso il lavoro nel 2012? Sì, nel 2012, a causa di una, diciamo, ristrutturazione. Il mio gruppo a livello europeo e americano è stato quasi del tutto cancellato. Io ero un responsabile a livello globale per tutto il mondo per dei progetti specifici di cui ero il coordinatore a livello di creazioni, procedure, protocolli e via discorrendo. E mi è stata proposta la mobilità, alla quale potevo anche oppormi per tante ragioni, ma poi dopo diverse valutazioni l'ho fatto in maniera personale, poi confrontandomi con la famiglia, persone, magari con la famiglia, sì, ma anche con esperti del settore dal punto di vista sia economico, legale e finanziario, ho deciso di accettare il famoso pacchetto di uscita, che consisteva in un incentivo all'esodo più la mobilità, che nel mio caso era di 24 mesi, ed anche un sostegno da parte di una di queste agenzie di ricollocamento. E non so se posso fare il nome anche in questo caso. Ma sì, comunque Sergio, a noi più che altro interessa capire cosa è stato fatto in questo percorso. Lei oggi come sta? Soprattutto. Allora, come sto? Diciamo che i 6 mesi di supporto di questa agenzia di ricollocamento mi hanno in un certo senso aiutato molto a superare la fase iniziale di impatto, di ritrovarsi da un giorno all'altro senza lavoro, che ero abituato ad andare in ufficio alle 7 e tornare a casa alle 7:30-8 di sera e lavorare fino a tarda sera. Quindi mi è mancato proprio a livello anche culturale il lavoro, a livello di dignità anche, sapere che tutte le mattine mi dovevo alzare per andare in ufficio. Per me non era un peso, ma era assolutamente un qualcosa anche da una grandissima gratificazione al mondo, no? Una gratificazione al di là del peso, che non mi ha mai spaventato a livello di fatica. Ciò che non ho trovato nell'azienda, diciamo, che mi ha dovuto supportare, è stata proprio una preparazione della persona che mi ha assistito. Nella ricerca di posizioni similari o anche di livello inferiore, perché sono, ecco, come dicevate tema voi prima, che avremmo voluto... di flessibilità, sì, assolutamente flessibile, anche a ricominciare completamente da zero. Non dico da spingere il carrello, per dire, per portare le fotocopie da una parte all'altra, ma insomma, non volevo sicuramente la mia, Sergio, il mio guardi, livello di quadro. Noi abbiamo ascoltato molto volentieri la sua testimonianza e cogliamo anche che lei ha molto desiderio di condividerla con noi, di argomentare, quindi ci scusi se abbiamo purtroppo questa fretta radiofonica che ci impone sempre di tagliare i vostri interventi, ma il senso, le assicuro che, Carlo, lo abbiamo capito perfettamente, sono testimonianze che ogni giorno tu raccogli anche dalle tue... Sono le testimonianze quotidiane che vediamo, ecco, nell'ordine di 6-7 persone ogni giorno oramai che vengono da noi con queste esperienze. In questo caso l'unica cosa che mi viene da dire è che parliamo di una persona con un curriculum molto ricco, importante, e quindi lo so che è difficile, ma guardate che il mercato del lavoro non si deve guardare geograficamente solo attorno a noi in Italia. Il mercato del lavoro, soprattutto per esperienze professionali molto ricche e importanti, offre delle occasioni all'estero, in paesi in via di sviluppo, in crescita, infatti, e così via. Perché il limite nostro è anche un po' quello di pensare che il mercato del lavoro si debba contare, questo lo dico anche ai giovani sempre, a quale mercato del lavoro ci rivolgiamo? Quello italiano, perché non europeo o mondiale? Lo so che andare via di casa è brutto, ma questo è un dato di fatto ormai acquisito. Guarda, aggiungo anche che qualche volta proprio anche solo quello italiano che non si guarda, si cerca di chiaramente focalizzarsi, giustamente. Io poi ribadisco, Nicoletta, lo sappiamo, parliamo sempre con grande rispetto delle scelte individuali di tutti quanti, però oggi purtroppo non è più il caso di fare. Quindi insomma il suggerimento a Sergio è quello di magari candidarsi un po' fuori Roma? Un po' fuori Roma, fuori dall'Italia. Guardate che la richiesta di esperienze fatte di professionisti e manager italiani nel mondo, perché vengono considerati un'eccellenza, anche questa è un'eccellenza italiana, è molto più alta di quanto noi percepiamo. Back to work lo sentirebbe un profilo come questo, con grande franchezza? Sì, assolutamente, Sergio. Sì, posso dire, Carlo, senza nominare, noi abbiamo un centinaio di amministratori delegati di medie e grandi aziende che si sono rivolti a noi. Sergio, faccia anche un po' questo tentativo, presenti il suo curriculum a Back to Work e magari che sa mai che ci sia una piccola azienda che lei non ha neanche lontanamente preso in considerazione, che sta in un'altra regione e che ha bisogno proprio di lei in questo momento. Che dici di fare? Allora, se Carlo si ferma, che così noi continuiamo a parlare, ci spostiamo sul fronte della salute per capire intorno agli ANTA quanto la nostra situazione lavorativa e anche quanto alla gestione dello stress che anche dall'idea di perdere lavoro può derivare ha inciso sulla salute, in questo caso maschile, perché Salute Uomo è un progetto che è dedicato naturalmente agli uomini. Vogliamo provare a lanciare questa sfida? Ci occupiamo di medicina di genere entrando nella testa di un uomo e occupandoci specificatamente dei problemi maschili. Cuore e denari. Oh mamma, ho quasi 40 anni, non me ne sento neanche 20. E ho realizzato che il tempo è maledetto e si diverte a passare. Arrivano quasi all'improvviso, un giorno ai 30 anni ti svegli, eccola lì, ne hai 42. Uomini e donne hanno però una percezione diversa del tempo che passa, più spensierata almeno all'apparenza negli uomini, come racconta la canzone dei Tiro Mancino, che trovate naturalmente anche nel video della nostra pagina di Salute Uomo, più sentita, direi anche partecipata quasi con un po' di timore nelle donne, forse perché la boa degli Anta fa differenze di genere. Partiamo da qui perché ci lasciamo ispirare un po' dalla canzone dei Tiro Mancino, ma oggi vogliamo in questa prima puntata di Salute Uomo raccontarvi il programma, il progetto, avere una, così, un collegamento con la pagina dei Denari. Abbiamo scelto proprio gli Anta come non solamente un cambio di suffisso, ma anche proprio dei cambiamenti, un cambiamento nella vita, e lo sappiamo, il lavoro impatta in modo molto significativo sulla salute generale, ma anche sulla salute sessuale degli uomini. Dottor Salonia, anzi io propongo, dato che lei è l'uomo del trio, possiamo chiamarla Andrea, e poi nel momento in cui una volta al mese sentono Andrea Salonia, sanno che lei è andrologo, urologo ed è l'uomo del trio? Trovo che sia molto più semplice, molto più, okay, più bello. Grazie. Entriamo più Deborah, in confidenza ormai, come dire, ci siamo un po' allargate. E d'altronde dottor Salonia ci piace molto. Allora, ma mi piacerebbe pensare proprio che questo "ci siamo un po' allargate" abbia lo stesso significato parlando di salute al maschile. Ottimo. Nel senso che in qualità di urologo andrologo tutti mi ritengono o ritengono la nostra categoria dedicata ai problemi della genitalità, i problemi del far la pipì, i problemi dell'avere difficoltà nei rapporti, difficoltà nell'avere bambini e quant'altro. In realtà salute al maschile, per come l'avevamo pensato, per come ci era venuto in mente, è molto più, il termine olistico non mi piace, ma molto più omnicomprensiva. Cioè, un po' come succede per la salute femminile, esattamente, che negli ultimi anni ha adottato esattamente questo metodo, sì, non ha scomparti, no? Esattamente, un po' una medicina di genere rivisitata al maschile, considerando soprattutto che quello che tu, Nicoletta, dicevi poc'anzi, cioè il fatto che forse abbiamo dedicato tanta attenzione a quelle donne che hanno più partecipato il proprio passaggio dai 30 ai 40, in realtà non è proprio così. Perché se dovessi solo considerare l'esperienza di ieri sera, in ambulatorio, l'ennesimo uomo di 40 e pochi anni più che di colpo ha deciso che la sua vita dovesse cambiare, nel senso che il tornar giovane aveva un certo valore. Come faccio a tornar giovane? Comincio a fare sport. Quale fra tutti gli sport? Lo sport che maggiormente viene praticato oggi in Italia, che è la corsa. Tutti vanno a correre ed è tipico dei quarantenni, e questo modo di correre si è anche tramutato un po' nello stato di nuova ricerca della salute, che è una salute di vario genere, ovviamente, partendo dall'idea che la salute dopo i 40 anni cambia, non c'è nulla da fare, cambia perché cambia la pelle, cambia perché cambia il tono dell'umore, cambia perché cambia la capacità riproduttiva, la capacità legata ai rapporti sessuali, lo stato di salute in generale, insomma, tanto che prima si parla di facciamo prevenzione, ma qui si parla di facciamo prevenzione secondaria, che vuol dire cominciamo realmente a guardarci dentro, addosso, sopra e sotto, per stare meglio. 800 24 00 24, abbiamo già Francesco che ci chiama da Lecce, benvenuto e buongiorno, il primo ascoltatore che partecipa a Salute Uomo, cosa dobbiamo fare? Scatta il libro, scatta benvenuto, il libro immediatamente. Benvenuto Francesco. Buongiorno, senta, io ho 54 anni e da 9 anni ho problemi col testosterone che è basso, prima era intorno a 3,5, adesso da un anno che è sceso a 2,4. Il medico, diciamo, al quale mi sono rivolto mi ha fatto fare una cura con la gonadotropina corionica. L'LH comunque risultava anche basso insieme al testosterone, quindi con questa cura che ho fatto per 6 mesi, l'LH alla sospensione, il testosterone è ritornato alla normalità intorno a 5, 4,5, l'LH lo stesso intorno a 4,5, però dopo 6 mesi siamo ritornati punto e da capo, il testosterone, sì, è sceso a 2,4 ci dà l'opportunità. Grazie Francesco. Allora, se lei poi vuole mandare una mail, ma l'indicazione è in importante perché ci permette con Andrea Salogna di parlare di testosterone. Noi oggi vogliamo parlare di salute maschile, far capire un po' qual è il progetto, ci vogliamo legare anche a tutte quelle vicende della vita, oltre che del nostro calendario degli anni, che possono minacciare o cambiare la salute sessuale, che ricordiamo è uno specchio importante della salute generale. Testosterone, l'ormone maschile per eccellenza, è un... Che avete voi, anche voi femminucce, peraltro. Noi ne abbiamo, pure. Quello che l'ascoltatore ha appena detto, secondo me, è estremamente interessante. In primo luogo perché ci espone al fatto di dover considerare il testosterone, anche qui barometro dello stato di salute, se e solo se, tuttavia, i valori bassi di testosterone si dovessero accompagnare dei sintomi o dei segni, perché non per forza di cose dovrò dare del testosterone o sostituirlo per arrivare a dei valori di normalità laddove non ci siano dei segni e dei sintomi. Sono squisitamente maschili, tutta la ricerca degli ultimi 10 anni ce lo dice. Banalmente diventa significativo dal punto di vista clinico, cioè dei sintomi, il fatto che un testosterone basso si accompagna ad esempio a minor desiderio legato alla sessualità, fatto di immagini, di pensieri, di sogni, di fantasie legate alla sessualità, un minor numero di erezioni al mattino che abbiamo, e che sono espressione poi delle erezioni di tutta la notte, che abbiamo fin da quando siamo in pancia alla mamma, durante il periodo fetale fondamentalmente, fino alla più tarda senescenza. La mancanza o la riduzione di quelle è già un altro sintomo di bassi valori di testosterone. E poi le difficoltà di erezione, cioè la possibilità di avere rapporti. Ecco, è vero che ha anche una relazione con quel senso di stanchezza, calo dell'umore, mancanza di vitalità, di energia, anche nel fare le cose, quasi che il testosterone potesse essere una spia anche della salute emotiva, psichica ed emotiva? Assolutamente sì, tanto che sarebbe sbagliato non dirlo, ci sono pazienti trattati per anni come pazienti depressi che in realtà si sono rivelati essere pazienti ipogonadici, cioè con bassi valori di testosterone. Il testosterone è un po' barometrico rispetto allo stato di salute perché permette fondamentalmente di avere, da una, vogliamo dire, freschezza cognitiva e emozionale, fino a una salute completa della cute, dei peli, piuttosto che ancora una volta della nostra prostata nel nostro pisello. Ma da un punto di vista psicologico, emotivo, cognitivo, il deficit o una mancanza, una riduzione progressiva di testosterone o un drop, cioè una mancanza improvvisa di testosterone, si accompagnano spesso a dei deficit mnesici, cioè a un calo della memoria, alla minor freschezza proprio nell'intellettualità, nelle capacità di elaborazione del pensiero. Banalmente un deficit di testosterone si associa anche al fatto di essere insonni durante la notte. Cuore e denari. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte. Beh, a proposito di migliori anni della nostra vita, siamo tra l'altro tornati a Cuore Denari con l'appuntamento di Salute Uomo che oggi proprio si inaugura. A proposito di migliori anni, sarebbe proprio tra i 40 e i 42 anni che si verificherebbe la cosiddetta crisi di mezza età, lo dicono degli studi molto recenti, e sempre secondo la ricerca la nostra felicità avrebbe un andamento a U che toccherebbe il punto più basso proprio a 40 anni. Al primo posto tra i fattori che concorrono a questa crisi c'è il crollo delle aspettative, soprattutto quelle professionali, quindi Deborah, siamo assolutamente in tema, rispecchiamo certo. I dati della ricerca, abbiamo parlato di lavoro e adesso stiamo cercando di capire quanto il lavoro impatti sulla salute generale, ce la state già raccontando, e sessuale, e molte sono le donne a raccontare i disturbi dei loro compagni. Esatto, anzi devo dire che ci ha anche un po' incuriosito, mi veniva da dire, ci ha fatto sorridere, non abbiamo certamente ovviamente riso di queste situazioni che molte compagne appunto ci raccontano relativamente alle situazioni che si vengono a creare nel loro menage familiare. E proprio Nicoletta ci scrive una mail raccontandoci che spesso gli uomini Anta devono fare i conti con gli effetti collaterali di farmaci che inibiscono la libido e che innescano circoli viziosi in termini di autostima. Adesso bisognerebbe davvero scandagliare che cosa intende dire Nicoletta quando ci scrive: noi mogli, oltre ai nostri problemi, abbiamo anche questi. Assolutamente. Questo è assolutamente vero. Siamo tornati a lei. Sì, no, perché il problema, la cosa è un po'... No, è ancora un po' difficile, ma ce la faremo. Ce la possiamo fare. L'aspetto secondo me importante è quello di questa che ha scritto questa ascoltatrice, questa scrittrice, è proprio relativo al fatto che i maschi spesso hanno difficoltà nel raccontare il loro stato di disagio, e quello che si avverte nella quotidianità degli ambulatori, perché poi i maschi, i nostri pazienti, li vediamo esattamente in un ambito ambulatoriale, quindi nella vita reale, è il fatto che molto molto spesso l'avere un problema viene percepito come una colpa. Non è mai una colpa avere un problema, e non bisogna mai vergognarsi di riferire di avere un problema. Quindi spesso le compagne fanno da surrogato alla nostra voce, nel senso che vengono a raccontare quello che è un problema che di per sé, proprio perché stiamo parlando di medicina di genere, non può essere vissuto nello stesso modo dalla donna che non ha questa percezione del machismo, della virilità, come è la percezione al maschile. Ecco, però ricordiamo che il problema poi diventa di coppia. Assolutamente sì. Però è certo vero che non bisogna vergognarsi di andare a raccontare di un problema, qualsivoglia esso sia, non è mai una colpa. Tu parli, Andrea, di racconto, e nella pagina di Salute Uomo c'è proprio uno spazio dedicato al racconto e alla narrazione. L'obiettivo di Salute Uomo vuole parlare con un approccio olistico, me lo mettiamo tra virgolette, un termine che non ci piace, ma non, come anticipava Andrea Salogna, non parleremo solo di prostate, di pisello, ma parleremo di mente, di corpo, di ascoltare i segnali del corpo, parleremo di fragilità, di debolezze, emozioni, di paura, certo, di emozioni. Allora abbiamo pensato di dedicare proprio questa prima parte, questa sezione, alla narrazione, perché ha un valore terapeutico. Soprattutto vogliamo cercare di vincere questa ritrosia. Scriveteci, non quanto e come gli anni, la salute, il vostro lavoro hanno in qualche modo prodotto dei risultati sul vostro modo di affrontare la vita. Ogni settimana due dei racconti saranno selezionati e riceveranno a casa una maglietta, una t-shirt di Radio 24, per cui ci aspettiamo, ovviamente, perché sarete molto contenti di ricevere la nostra maglietta, ci aspettiamo tanti racconti, ma soprattutto ce li aspettiamo perché per questo valore terapeutico che indicava Nicoletta, no? Perché scrivere è proprio terapeutico, molto spesso. E tu lo sai, le persone, bene, perché ti piace molto, a me piace molto molto scrivere, ma al di là di quello esiste proprio un genere di terapia che si definisce medicina narrativa, un genere di medicina che si definisce di per sé narrativa, che permette di mettere su carta, nero su bianco, e forse anche di liberarci da qualcosa che da un punto di vista verbale, di vocalizzazione, non saremmo in grado di esternare, mettendo una lettera dietro l'altra, dando a queste lettere un significato di parole, alle parole un significato di frase, che alla fine della pagina ci abbiano permesso di descrivere il disagio, la difficoltà o quant'altro che ci caratterizza. 800 24 00 24, raccontateci la svolta, i 40, i 50 anni, hanno dato un segno, un cambiamento alla vostra vita, alla vostra salute generale, alla vostra salute sessuale, o invece è stato più impattante la perdita del lavoro, lo stress, perché anche chi il lavoro ce l'ha è stressato perché ha paura di perderlo. E il testosterone ne risente, parola del giorno, tra l'altro. Il testosterone ne risente moltissimo. Peraltro, Nicoletta e Deborah, se posso permettermi di dare un segnale, sul sito di Salute Uomo è anche inserito un questionario che per noi che ci occupiamo di medicina della sessualità e dello stato di salute al maschile è un questionario assolutamente notissimo, un questionario dedicato alla valutazione della funzione dell'erezione, cioè alla capacità di avere rapporti, ma non solo, perché si occupa in tante sezioni del desiderio, della sessualità, della funzione orgasmica, insomma dello star bene dal punto di vista sessuale. Il programma non è nato con l'idea di occuparsi solo di genitalità, quindi di problemi legati alla sfera urogenitale, ma quel questionario a mio avviso è particolarmente indicato proprio oggi, proprio perché il passaggio degli ANTA è di per sé un passaggio estremamente importante. Quel questionario può permetterci con dei semplici numerini ed è facilissima compilazione, ma arriva a dare un punteggio in funzione del quale saremo in grado di definire il nostro stato di salute. Perché? Perché la funzione dell'erezione, cioè la capacità di avere rapporti o meno, o al contrario i problemi nell'erezione, sono un po' stati considerati barometro dello stato di salute. E immaginatevi che esistono proprio dei dati scientifici che ci permettono di dire: primo, l'erezione di per sé è un campanello d'allarme per una condizione di salute meno valida, soprattutto dal punto di vista cardiaco, soprattutto nei soggetti giovani, soprattutto nei soggetti giovani che abbiano le comorbidità. Prima l'ascoltatrice diceva gli antipertensivi. La pressione alta unita a un problema di erezione fa da barometro e ci permette di dire: attenzione, campanello d'allarme rispetto a problemi più seri a livello coronarico, ad esempio. Andrea, noi parliamo spesso e con piacere di alimentazione, dell'importanza di mantenere o di tornare ad un peso forma, e anche la pancia è un fattore di rischio per il per gli uomini, naturalmente anche per le donne, ma per gli uomini, perché ha delle relazioni molto strette con la salute del cuore e anche con la salute sessuale. Assolutamente. Quindi, sì. La pancia non è amica del di Eros. Non è amica di Eros, ma non è neanche amica della nostra prostata, non è amica della nostra salute dal punto di vista osteoartromuscolare. Se immaginate che i fattori di rischio che stanno alle spalle dei problemi di tipo cardiovascolare, dei problemi di tipo sessuale, dei problemi di tipo menzionale, fondamentalmente sono gli stessi. Che cosa c'è tra tutti questi fattori di rischio? Sempre annoverata l'obesità, cioè un eccesso ponderale, che non deve essere visto solo come rapporto tra peso e altezza. È facilissimo capire a casa come stiamo, basta utilizzare un metro da sarta, misurarci la circonferenza vita. Già quello è un parametro dello stato di salute. Una circonferenza vita per la popolazione caucasica, cioè noi, superiore a 102 centimetri, è talvolta espressione di una poca qualità di vita, intesa come quantitativa, cioè salute. E incide anche sulla fertilità. Assolutamente. Ecco, sì. A questo tema dedicheremo sicuramente sì, una puntata però iniziamo a dirlo, perché si pensa sempre che la pancia sia un problema magari di così estetico, un problema che in qualche modo impatta magari solo sulla salute del cuore, a parte che non siamo fatti a scompartimenti stagni, no. Ma ecco, c'è ed è provata una relazione molto stretta tra grasso viscerale e fertilità. Adesso non possiamo dire che vi daremo la dieta della fertilità, ma affronteremo sicuramente questo problema. Intanto 800 24 00 24, Deborah. Ed è il nostro candidato Marco da Genova, che salutiamo. Marco, benvenuto. Il foglio della Nicoletta, ma ha fatto proprio il foglio. Marco, non si distragga. Marco, in diretta. Cosa ha fatto questa Nicoletta? Che niente, praticamente lui è lì in attesa. Marco parla di noi ma non parla con noi. Marco, ma noi lo richiameremo. Non l'ho mai visto. Combinando, non niente, so. Niente. Allora andiamo agli SMS. Andiamo magari, agli SMS, volentieri. Allora facciamo una cosa: per non perdere la domanda di Marco, la praticamente raccogliamo dagli SMS, perché il tema è questo: come si misura il testosterone, Andrea, e quindi quali sono le analisi che vanno fatte, da dove si inizia in sostanza? È molto semplice, davvero molto semplice, basta un semplice esame del sangue. Il testosterone è un analita che si misura nel sangue, basta fare un prelievo del sangue. Attenzione però, perché non è sufficiente avere un valore basso per dire a cipicchia devo avere un testosterone più alto e quindi devo ricevere una terapia adeguata. Al di là del fatto che la scienza sostiene l'utilità di almeno due prelievi che conclamino un valore basso di testosterone, ma è sempre un semplice prelievo che ci permette di dare un valore. È proprio un esame del sangue, generalmente il medico di base ci aiuta in una prescrizione piuttosto che lo specialista, ed è veramente facile. Ci si reca in un laboratorio e lo si misura. Due prelievi a che distanza di tempo? Oh, possono essere anche distanze di un giorno solo, in realtà si fanno distanze di più giorni, sempre al mattino, perché il picco degli androgeni è prevalentemente al mattino, tra le 7 e le 10 del mattino. Questo vale dal punto di vista scientifico, ma vale ancor più nella quotidianità di tutti i giorni. Ci sono degli accorgimenti per mantenere a buoni livelli o innalzare un testosterone che è caduto un po'? Beh, in realtà uno stato di salute generale è utile. Tenete conto però che esiste, esattamente come nel sesso femminile, un crollo dei valori di estrogeni, cioè dei vostri ormoni principali, in corrispondenza del periodo perimenopausale e della menopausa. Bene, nell'uomo non si può parlare di andropausa intesa come esiste un tutto prima e un nulla dopo. Questo è un concetto scorretto. E quello che bisogna sempre ricordare è che è parafisiologico, talvolta fisiologico, una progressiva riduzione dei valori di testosterone nel corso della vita degli individui. Tutti gli studi, anche quelli europei, di cui gli italiani sono forti promotori, dimostrano questo calo progressivo. Ora, non è che tutti gli uomini con un calo progressivo debbano essere sostituiti. Il termine sostituzione è il termine scientifico corretto per dire ricevo il testosterone che mi manca. Non tutti gli uomini devono avere un testosterone a 100, 100 ovviamente un valore fittizio, però non tutti gli uomini devono avere un valore altissimo per stare bene. È certo vero che una salute complessiva adeguata, fatta di alimentazione, attività fisica, attività sessuale adeguate, fondamentalmente mantiene o aiuta a mantenere dei livelli di testosterone adeguati. Fumo e testosterone, viene una, come una sorta di cosa? C'è una relazione, ci scrive un ascoltatore, che evidentemente... Mi permetto di dire che il fumo di sigaretta, purtroppo, da non fumatore e da acerrimo nemico, è nocivo a tutto tondo per la salute maschile. È nocivo perché? Perché danneggia i vasi, e i vasi risentono del tenore del testosterone. È nocivo perché danneggia i polmoni, la vescica, la prostata, la funzione riproduttiva, la funzione sessuale. Il fumo è nocivo sempre, ivi compreso per l'aspetto ghiandolare, dove apparentemente il fumo di sigaretta può determinare danno. Allora, abbiamo dei nostri ascoltatori e poi parleremo, no, di questa, ci sono su tutti i giornali, parlano della pillolina blu che riconquista gli italiani, anche perché... adesso costa molto meno, e la potenza dello sconto. È stato sdoganato il generico, sostanzialmente. Tra l'altro, nata per il cuore, adesso proprio esatto. A dimostrare questa relazione stretta tra salute cardiovascolare e salute sessuale, è proprio una testimonianza. Ne parliamo tra poco, perché certo, abbiamo il nostro amico che abbiamo ci chiama. Abbiamo Walter dalla provincia di Rimini. Peraltro, non abbiamo ricordato anche Nicoletta che questo è proprio anche il momento dei quarantenni in politica. Sembra che si stiano facendo davvero largo, con grande energia. Abbiamo dei bei modelli, da Tsipras al nostro Renzi. Adesso poi uno può piacere o no, però insomma, veramente. Anche Salvini. Salvini è un altro. Sì, forse un pochino più grande, no, ma non ma, so, no, no, ma più o meno sono per i 40 anni, sono brillanti, un po' fisicati. Renzi è un po' panciolino, ce l'ha, sì, diciamo che la sì, un po' sì, però non si vede. Vabbè, dire, mica ha detto un po'. Si vede anche un po', no? La pappa gorgetta. Io ho una teoria. L'abbiamo massacrata. Nicoletta ha una teoria stranissima. No, Tsipras è più bello, diciamocelo, però mi sembra più in forma. Però ha una teoria di là. No, la teoria non la dico, perché io l'ho letta e l'ho sentita. Anzi, me l'avrà detta un tuo collega. Se è pubblica, che allora dice puoi che dirla. Praticamente l'età di un uomo si può individuare da quella pieghetta accennata o magari un pochino più pronunciata che si forma vicino al lobo dell'orecchio. Io ho guardato Andrea, che non ce ne ha neanche dipinta, neanche una, e loro mi hanno detto che non è vero. Io sto facendo una mia indagine personale in metropolitana. Guarda, infatti prima o poi mi fermeranno, mi diranno è lei quella che guarda. Andrea, dobbiamo andare a recuperare in qualche commissariato. Comunque, speriamo di no. Cercheremo. Allora lo chiedo alle amiche di Cuore Denari, fateci caso anche voi, facciamo una ricerca tra di noi. Il test della pieghetta vicino all'orecchio. Secondo me è vera comunque. Walter, buongiorno. Buongiorno, che emozione parlare con le ragazze. Oh, Walter. Applauso Walter, bravo. Vedi che lui già sa. Lui è già lui uno avanti. Che ha capito. Vi seguo sempre, quindi. Tu come mai tutta questa ilarità, Walter, a parte il fatto di parlare con noi? No, no, io sono così proprio di natura, non sono così, sono, no, intanto volevo dire che ha perfettamente ragione il professore che ha parlato prima, perché io ho smesso di fumare da un po', da un bel po', dieta chiaramente diversa da come da quando fumavo, perché il fumo, almeno secondo me, ecco, secondo me, ti dà qualche caffè in più, il cicchettino alla sera in più, quella mangiatina in più. A me ha cambiato la vita, a livello sessuale vado alla grande, 58 anni, nessun problema, sarà anche che ho la moglie, vabbè, di 20 anni più giovane di me, ma quello incide, penso che voglia dire, ecco, per almeno per non lo so, per la volta, non necessariamente. Non è che la moglie di 20 anni più giovane garantisce una salute sessuale. Però anche le mogli che... più o meno di 5 o 6 anni meno o della stessa età o qualche anno di più, cioè aiuta ma non è determinante. Ma il fatto di aver smesso di fumare invece è fondamentale, sì. In realtà, se possiamo aggiungere solamente un cenno, attenzione, perché smettere di fumare spesso equivale ad incrementare l'ingestione di cibi dolci, cibo in generale, quindi molto spesso le persone riferiscono di ho smesso di fumare, mi sono impegnato ma sono ingrassato. Questo è estremamente importante soprattutto in questa fascia d'età, 40-50 anni, dove il riprendere poi a fare attività sportiva diventa difficile. Allora, dobbiamo salutarci, appuntamento all'ultimo venerdì di febbraio con Andrea Salonia. I video però li potete anche vedere, sì, sulla nostra pagina, un video dedicato proprio alla pillolina blu, ma a molti altri. Li vedrete strada facendo. Intanto ricordatevi la medicina narrativa, o racconto dei vostri ANTA, magliette ai primi due migliori racconti. E che dire? Che naturalmente saranno scelti dal nostro insindacabile giudizio con l'aiuto di quello naturalmente di Andrea, grande scrittore oltre che grandissimo medico. Grazie a tutti, grazie, speriamo a che voi vi siate oltre che divertiti anche soprattutto interessati e sensibilizzati allo spirito del nostro nuovo contenitore Salute Uomo. Noi direi che possiamo andare a goderci il nostro weekend. Sì, oggi pomeriggio bisogna lavorare. È per lunedì, sì, perché ecco, abbiamo tantissime cose in ballo. Bacio Filippo Reggi, perché ho dato una botta al microfono e mi ha fulminato, ma sono ancora viva. Esatto, anche a Marco Lombardo e a Isotta Shen. A lunedì, buon weekend a tutti.